Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. In ossequio alla famosa filosofia del risultato, mi sembra sia stata valutata in termini un po' troppo ottimistici la vittoria dell'Italia contro gli Stati Uniti. In realtà l'Italia è andata sotto quando già era in superiorità numerica. Il rigore di Chiellini avrebbe potuto comportare anche l'espulsione, e quindi 10 contro 10. Ha rimontato grazie a due, anzi tre prodezze balistiche, per carità, in un momento di superiorità netta, ma anche numerica. Insomma, è ancora poco dalla fine, sul 2-1 ha rischiato di subire un altro calcio di rigore che poteva anche essere dato. Ora, dopo aver concesso agli Stati Uniti le due uniche palle gol nitide su azione del primo tempo, mi pare che siano tutte queste riflessioni che vanno fatte, così come quelle sulla scelta di un blocco che è la scelta iniziale di un blocco che, insomma, partita dopo partita sta dimostrando la sua usura oggettivamente. Sentiamo il commento generale di Lippi. Abbiamo sofferto, sì, la loro dinamicità, la loro corsa, la loro forza. Forse l'abbiamo un po' troppo sentita questa partita, un po' di tensione, un po' calosità, però poi dopo alla fine, insomma, la squadra ha giocato, ha girato, ha creato occasioni, sono contento per Rossi che ha fatto due gol, può sbagliare anche, per carità, come ha sbagliato oggi all'inizio, però questo, il cuore questa squadra ce l'ha di sicuro. Sentito le trombette sullo sfondo, c'è un ascoltatore di Bologna che scrive subito: ma queste trombette ci flagelleranno per tutte le partite dei prossimi mondiali, proviamo a fare qualcosa, cerchiamo di vietare l'ingresso. Effettivamente la compagnia acustica che fanno è un po' eccessiva. C'è una bella dichiarazione di Giuseppe Rossi appena arrivata dalle agenzie, e dice: mi piace la parola paesà, così ci chiamano negli Stati Uniti, noi di origine italiana, e quindi chiamate pure anche me così, paesà. Gli Stati Uniti sono il mio paese, ma ora che gioco nella nazionale italiana io l'Italia me la sento dentro. E a parlare è l'attaccante che ha risolto, che ha cambiato faccia alla partita di ieri, che è un figlio di immigrati italiani nato nel New Jersey, e che appunto accetta, anzi rivendica con fierezza questo soprannome, questo appellativo di paesà. Continuiamo con le voci. Il commento di De Rossi, che è stato uno di quelli più cresciuti nel secondo tempo, prima di firmare anche una prodezza balistica non inedita per lui. Questa è, diciamo, fa da contraltare a quello che era stato tutto quello che c'era stato di negativo in quella serata, e tutte le mie colpe che poi piano piano ho cominciato a capire, e ho detto: non devo dimenticarle perché mi hanno servito tanto, mi sono servite per migliorare in tutto, no? Però è stata una bella serata, sarebbe stata bella anche se avessimo giocato con un'altra squadra. Di grande voglia di giocare, grande anche un pizzico di tensione, lo dicevamo nel sottopassaggio, nonostante, insomma, parlavamo di tensione, i giocatori che hanno vinto Coppa Campioni, oltre al Mondiale, quindi questo dimostra che forse inizialmente è stato un contro, ma sicuramente è uno dei tanti pro che ha questa squadra. E noi ci teniamo sempre tanto, il Mondiale ci ha visto festeggiare tanto, e si parlava della nostra felicità perché veniva dopo Calciopoli, ma noi siamo proprio un gruppo così, un grande gruppo secondo me, grandi doti tecniche, ma soprattutto grandi doti morali, e queste sono quelle che poi ci fanno vincere anche qualche partita che comincia male. Sinceramente, scrive Alex da Udine, non capisco perché Grosso sia sempre messo in secondo piano o in discussione, i terzini sinistri come lui in giro ce n'è veramente pochi. Io trovo che Grosso nella partita di ieri sera non abbia fatto cose straordinarie, ma sia però quello che più ha i tempi di inserimento, quello che è più funzionale, quello che è più ordinato per l'appunto negli inserimenti, molto più di Zambrotta sul piano qualitativo. Poi sulla quantità si può anche discutere, quindi condivido l'impressione di questo ascoltatore. Poi molte altre vostre arriveranno nel frattempo con i vostri interventi in diretta. Ho sott'occhio le pagelle di molti giornali, mi sembra ci sia unanimità per esempio sulla brutta prova di Gattuso, che palesemente non è ancora in condizione. Se Gattuso non è al massimo della condizione fisica, insomma, evidentemente il suo rendimento ne risulta limitato. Bocciatura direi severa e abbastanza condivisa per Camoranesi. Giudizi alterni su Chiellini, anzi su Chiellini abbastanza negativi, più alterni sulle Grottaglie, che io ho trovato personalmente pessimo, in particolare nel primo tempo. Proprio Gattuso è stato sentito da Stefano Piazza, che a sua volta sentiremo più tardi dal Sudafrica, visto che sta seguendo anche per noi questa manifestazione. Gattuso. Giocare in un torneo come questo in altura e al freddo, com'è? No, oggi non faceva tanto freddo, devo dire che quando siamo arrivati faceva molto freddo. Sì, l'altura è un problema, nel senso che fai più fatica a recuperare gli scatti, però penso che i problemi che abbiamo noi ce l'hanno anche gli altri. Certo. La stessa tensione, la stessa emozione di un mondiale o la Confederations Cup è più un torneo esibizionale? La pressione c'è sempre, perché quando indossi la maglia azzurra sei meglio di me, che c'è sempre la pressione, dopo è normale. Però quando giochi con queste competizioni qua, nessuno ci sta a perdere. Sei meglio di me, che all'inizio sembra, come dire, una scampagnata, però dopo quando scendi in campo puoi arrivare fino in fondo, no? Certo. È come la Coppa Italia, faccio l'esempio, no? Nessuno la vuole vincere, dopo più uno va avanti. Quando arrivi in fondo, sì. Così. Lo visitate già in semifinale, l'Egitto sarà no, ostico. Abbiamo visto oggi che è una squadra molto tecnica, una squadra che ha una qualità di gioco. Oggi, se non mi sbaglio, ho visto 47% possesso palla in Brasile, 53%. Questo fa capire che tanto di cappello e tantissimo rispetto. Ecco, questa in effetti è un'osservazione interessante, di cui poi parleremo con Fabio Tavelli, che ha seguito come sempre in particolare tutto quello che non è Italia. Se in una partita così combattuta, così equilibrata e insomma risolta all'ultimo minuto sul 3-3 tra Brasile e Egitto, insomma assolutamente inatteso come punteggio, se in una partita di questo genere l'Egitto ha una superiorità di possesso palla sui maestri brasiliani, i maestri di palleggio, beh, qualcosa sulla qualità degli egiziani certamente vuol dire. Sebbene io sia un profondo estimatore di Bearzot e provi una leggera antipatia per l'attuale CT, scrive Marione Scalia da Milano, mi auguro proprio che Lippi non commetta l'errore di Bearzot in Mondiale di Messico 86, e cioè rinnovi per tempo un telaio di combattenti reduci, io li chiamo così, che effettivamente in qualche componente danno l'impressione, e comunque in blocco tutti insieme danno l'impressione di aver fatto un po' il loro tempo. C'è Nina Claudio da Roma, buongiorno. Buongiorno signor Garazzini. Dica. E niente, gli volevo dire che ribadiamo ancora una volta che non ci sono squadre di seconda fascia, specie a livello nazionali, no? Ieri abbiamo visto l'Italia per l'ennesima volta contro gli Stati Uniti, dicevano tutti vincevamo, poi c'è sempre da lottare, sempre da lottare. Ma poi non ci sono, mi scusi, lei è sicuro che non ci siano più squadre di seconda fascia? Io ho l'impressione che non ci siano più squadre di prima fascia invece, mi sembra che manchino gli squadroni, tolta forse la Spagna in questo momento, capaci di prendere le squadre come gli Stati Uniti e di affrontarle in un'altra maniera. Oh, ecco, poi volevo dire anche un'altra cosa, vedendo la radiocronaca alla Rai 1, no? C'era Mazzola che parlava del Brasile, ogni volta toccava al Brasile, del velluto, sul velluto, a me tutto questo velluto che dice, io ho visto un grande Egitto, che ha cantato, che gli ha detto pure male all'ultimo minuto, poteva pure vincere, sentì Mazzola, adesso capisco perché, che ne so, Mazzola, che ne so. Chi ne sa? Va bene, grazie Claudio. Stavo continuando per illustrare pagelle. Vabbè, c'è unanimità evidentemente nei confronti di Rossi, che era stato sfortunato in altre occasioni e ieri sera è stato ripagato tutto in un colpo, direi, perché entrare e nel giro di un minuto e mezzo circa timbrare subito con un gol molto bello, dopo aver tra l'altro strappato palla lui, è ovvio che tutto questo ti eccita e ti porta poi a giocare una grande partita o una grande mezz'ora finale di partita, però bisogna sapersele creare queste situazioni, cioè bisogna entrare con lo spirito giusto e bisogna poi anche che un ingresso di questo genere a mezz'ora dalla fine non diventi nocivo per lui. In che senso? Ma nel senso che essendo Rossi così rapido, così bravo e così capace, l'ha dimostrato ieri, di entrare in azione subito a freddo, potrebbe anche suggerire a Lippi di classificarlo come un dodicesimo uomo ideale, no? E quindi di tagliarlo fuori magari da formazioni di partenza. Sono problemi che vedremo poi, mentre invece, dando il benvenuto a Fabio Tavelli, buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, un saluto a tutti. Il vero problema un internazionale, il vero caso che è uscito dalla giornata di ieri, si è verificato al penultimo minuto di Brasile-Egitto, quando l'arbitro Webb prima ha negato un calcio di rigore agli egiziani per un fallo di mano, anzi di braccio, sulla linea, ai brasiliani, dicevo, su una girata di Lucio, mi pare, e poi di Lucio, e poi invece nel giro di non meno di un minuto, direi, non so se però tu hai calcolato meglio, il rigore era concesso. Intorno alla quarantina di secondi. Allora, raccontaci i fatti, che più o meno sono questi, ma soprattutto le interpretazioni retroscena e le conseguenze. Ma l'interpretazione, di interpretazione si tratta, perché comunque l'ufficialità di questa cosa evidentemente non ce l'abbiamo e non l'avremo mai, però la sensazione forte che ha dato Webb, non solo agli egiziani che poi hanno presentato un reclamo agli organizzatori, quindi alla FIFA, perché la manifestazione è sotto le insegne della FIFA, è che l'arbitro Webb abbia ricevuto una comunicazione attraverso l'auricolare, e fin qui siamo nel campo della legalità, tra virgolette, ma non dal quarto uomo, o magari dal quarto uomo, ma il quarto uomo sollecitato da qualcuno che fosse davanti a un teleschermo, perché la posizione dell'arbitro Webb era ideale per decidere. Webb, c'era molto traffico in area in quel momento, però Webb era in una posizione buona. Lucio ha colpito e il difensore dell'Egitto ha, in maniera abbastanza evidente, respinto con un braccio. Siamo tutti uomini, quindi ci sta che Webb non l'abbia visto, perché comunque era in zona spalla, però era braccio, e ha immediatamente indicato il calcio d'angolo, al punto che ci sono due immagini, secondo me, di grande evidenza. Lucio che va a protestare e che platealmente manda a quel paese l'arbitro e poi e se ne va via. Certo. E quindi è evidente che non lo manda a quel paese perché magari non ha ancora estratto il rosso per il difensore, perché il difensore è a terra dolorante perché è andato a sbattere contro il palo. Quindi evidentemente per espellerlo avrebbe avuto il tempo di aspettare che questo egiziano s'alzasse. Ma evidentemente l'arbitro aveva segnato il calcio d'angolo e quindi aveva dato corner. In quel momento si vede Webb che fa un paio di cenni in avanti con il capo, come a dire: ah, ho capito, va bene. Ovviamente, ripeto, non avrò mai la prova di questo, ma la sensazione è forte. E poi indica il dischetto del rigore. A quel punto gli egiziani ovviamente si arrabbiano, perché gli egiziani avevano capito che sarebbe stato giusto dare rigore, ma pensavano di averla fatta franca. Infatti nell'esposto, nel reclamo che fa la federazione egiziana, non viene contestato il fatto del calcio di rigore, certo, che è legittimo e sacrosanto, ma viene contestato il modo con il quale Webb è arrivato a questa decisione, che è un modo non legale, non corretto, perché non è ancora prevista, non è prevista la prova televisiva. Difatti, e la prova, insomma, la prova del no, adesso senza stare a scomporre fotogrammi, anche perché si è visto in diretta in tempo reale, la prova è che la prova perlomeno che gli sia arrivato un messaggio di lontano, quindi poi il messaggio stabiliremo dopo come, perché via gli è arrivato e in base a che cosa, ma la prova è che effettivamente lui annuisce, dà l'impressione di annuire esattamente come uno che sta parlando al telefono, che sta ascoltando qualcuno che gli sta parlando e dice: ah, è così, sì, bene. Ma ci sta che è evidente che qualcuno parla con l'arbitro, perché da quando ci sono gli auricolari la comunicazione tra i quattro ufficiali di campo problema non è questo. È legittima, certo. È legittima ed è corretta. Nessun guardaline, e men che meno il quarto uomo, però poteva vedere meglio di Webb. Cioè, anche perché appunto il problema è quello, Webb è a 15 metri al massimo dalla linea di porta, da punto incriminato, il più vicino degli altri è a 55 come minimo. Esattamente, ma fosse anche stato il guardaline, mettiamo che per un caso particolare, intanto il guardaline era dall'altra parte. Ma mettiamo anche che l'avesse visto, l'arbitro di solito per comunicazioni del genere si reca di persona, non ha bisogno dell'auricolare, cioè ci va direttamente. È col quarto uomo che lui ha necessità di parlare con l'auricolare, anche per una questione di distanza. E quindi se il quarto uomo era in comunicazione con qualche ufficiale di campo che era davanti a un monitor, e la federazione internazionale a questo punto ha pensato che una decisione del genere non potesse non essere sanzionata, cioè non potesse non essere presa, siamo di fronte a un caso particolare, certamente singolare, forse epocale. Io credo che non sia stato il primo caso questo, perché il sospetto che questo fosse accaduto anche nella finale di Berlino con la testata di Zidane a Materazzi era abbastanza forte. Certo. Però è chiaro, cioè, con gli ufficiali di campo promessi da Blatter e Platini questa cosa non sarebbe accaduta, senza ricorrere al moviolone o, certo, o quant'altro. Insomma. Ecco, e vedremo quindi tra un anno. Leggo molti messaggi interessanti, poi magari leggerò anche a voce alta tra poco. Volevo prima concludere questo discorso con Fabio Tavelli domandandoti, allora, la prospettiva adesso qual è? Io sono abbastanza curioso di sentire una presa di posizione ufficiale della FIFA su questa materia, perché io sono certo che la FIFA negherà, però è anche vero che negherà quello che ormai grosso modo abbiamo capito, cioè in manifestazioni di questo genere entra dalla finestra la moviola ufficialmente respinta dalla porta, mi pare di poter dire. Beh, la FIFA deve rispondere, perché l'Egitto, che è una federazione, ha presentato un reclamo e quindi andrà data una risposta, che sarà una risposta di nulla, perché comunque la partita non verrà invalidata, non verrà ripetuta, non trattasi di errore tecnico, anche se tendenzialmente potrebbe riscontrarsi anche questa cosa, ma non è una fattispecie tale da consentire la ripetizione della partita, e poi non ci sono i tempi e quant'altro. Credo che la lettura di considerare la prova televisiva che entra dalla finestra sia una lettura valida, ma non sia quella, nel senso che a parer mio la Federazione Internazionale auspica che non ci siano partite decise da situazioni arbitrali troppo evidenti dimostrate dalla televisione, la testata di Zidane. Questa cosa, che tutto sommato per l'importanza della manifestazione poteva anche essere magari lasciata correre, però io credo che la FIFA davvero non voglia che ci siano delle ombre pesanti sui risultati delle competizioni che si svolgono appunto sotto le insegne della FIFA. L'idea, e che poi diventerà operativa, di utilizzare gli ufficiali di campo anche dietro le porte a questo punto diventa urgente, impellente, e questo soprattutto è una cosa risolutiva, perché un ufficiale di campo lì risolve anche meglio della televisione, perché accanto al palo un giudice di linea può vedere anche meglio di una telecamera, e quindi io non credo onestamente che sia il desiderio di far passare quasi come una cosa fatta la moviola in campo, perché poi la moviola in campo ha mille interpretazioni, c'è il fuorigioco, ci sono i calci di rigore, c'è il pallone che è entrato o non è entrato. Forse questo accelererà ancora di più il processo, o magari farà sì che la sperimentazione sia meno lunga, e che magari direttamente avremo subito l'ufficialità di questi dei giudici di linea. Sì, credo questo. Dei giudici di porta, potrebbe essere. Sì. Non possono leggerti, esentandosi dalla risposta, un messaggio firmato Pino da Chieti, che ti domanda se è più pericoloso l'Egitto o Tania, la tua partner al telegiornale, mentre invece bisognerebbe capire che tipo di pericolosità. Sì, certo, vabbè, ma appunto era per non entrare. Non la capisco. Sì. Mentre Stefano e Brescia si complimenta con te per aver citato ieri Zidane senza lei, aggiungendo che se Florentino Perez l'ha visto ieri lo porta subito a Madrid. In effetti tu ieri ci avevi anticipato il valore di questo attaccante che si è visto in pieno contro il Brasile. Ma Zidane è un giocatore veramente forte, e lo è da 2 anni almeno, quindi chi lo compra adesso sconta il fatto che stiamo parlando di un ragazzo che ormai conoscono tutti. Lui gioca nella Bundesliga da 2 anni, davvero fa un sacco di gol, e si vede che è un giocatore che ha un passo e una caratura buona anche per i tre campionati più importanti, quindi Premier, Liga e Serie A. Si tratta semplicemente, a parer mio, cioè è chiaro che Perez lo può prendere solo quando è già formato e già fatto. Quelli bravi sono stati quelli che l'hanno preso 2 anni fa, certo. Poi adesso questo costa 3 o 4 o 5 volte. Ed è giusto che sia così. Senti, in proiezione Italia-Egitto, ultimo argomento di oggi, prima ho sentito Gattuso fare un'osservazione interessante, dire che se una squadra come l'Egitto riesce a fare il 53% di possesso palla contro il Brasile, no, nessuno ha mai vinto una partita con la superiorità del possesso palla, non è quello, però giocando contro il Brasile è indubbiamente un dato significativo per una partita che finisce che resta in parità fino all'ultimo minuto. Ecco, in questa proiezione, io penso che l'Egitto sarà indubbiamente un ostacolo più alto di quello degli Stati Uniti. La condividi o meno? La condivido, ne ero abbastanza certo, perché intanto l'Egitto si picca un po' di voler essere il Brasile africano. Io penso che l'Egitto abbia dato il meglio di sé quando si è liberato sul 3-1, cioè quando la partita era di fatto persa, quando sì. Si è liberata del peso psicologico della partita. E allora hanno iniziato a giocare davvero come loro sanno. Loro sono straordinari, tecnicamente non hanno niente da imparare nemmeno ai brasiliani. Credo che ancora una volta però abbiano dimostrato quello che è il loro grande limite, cioè una squadra che da 3-1 recupera 3-3 e poi chiude a tripla mandata tutto, e non il gol del 4-3, anche se per tutto quello che abbiamo già detto particolare, un gol del 4-3 non lo prende più. E quindi penso che se da un punto di vista tecnico loro possano farci anche ballare in quanto nazionale italiana, io penso che tatticamente la partita comunque l'Italia la saprà gestire meglio degli egiziani. Certo, poi di fronte a maggior possesso palla, una tecnica individuale complessivamente superiore e un'organizzazione di gioco evidentemente qualitativamente più pronta, l'Italia potrebbe anche far fatica. Però sono film già visti mille volte, nei quali l'Italia ha magari subito tutte queste componenti, ma poi o in un episodio o con l'organizzazione, il gruppo, il cuore e tutte quelle caratteristiche che fanno di questa nazionale la nazionale campione del mondo, poi l'Italia l'ha sempre portata a casa. Però effettivamente il rischio di essere messi alle corde c'è, sicuramente c'è. Grazie a Fabio Tavelli. A voi buona giornata. Appuntamento credo a domani, in ogni caso a questi giorni. Sarà un caso, si domanda Daniele da Voghera, che anche Rossi sia uno spagnolo? Secondo me non è affatto un caso, perché Rossi, al di là delle sue qualità intrinseche, in particolare di quelle balistiche, si muove bene, ha il gusto di questa giocata di prima rasoterra, dello smarcamento, cioè ha affinato la sua tecnica e il suo modo di stare in campo giocando in un campionato di livello più alto del nostro, oggettivamente. Davide Modena, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Le chiedevo solamente due considerazioni. La prima è per quanto riguarda Lippi. Mi domandavo ieri sera, così incuriosito dopo aver visto la partita, che cosa avrebbe detto il mondo sportivo, sia diciamo così giornalistico che tifoso, se al posto del signor Lippi ci fosse stato il signor Donadoni. Sarei molto incuriosito. La seconda è, chiedevo se a parte il Toni e il Gilardino di ieri sera, se esistono altri attaccanti al loro posto, perché guardandoli così pensavo, ma il povero Inzaghi non faceva più bella figura? La ringrazio e l'ascolto per radio e le auguro buona giornata. Grazie. Grazie a lei. Guardi, Inzaghi è sempre stato un giocatore formidabile nel trasformare la superiorità della squadra in cui gioca. Quindi se la squadra in cui Inzaghi gioca è in condizioni di creare un grande numero di palle gol, allora Inzaghi è il massimo finalizzatore, credo, del nostro calcio. Se così non è, e non mi pare che in questo momento l'Italia sia una grande produttrice di gioco, anzi, soprattutto non in parità numerica come nel primo tempo, diciamo, anche se solo per 32 minuti, e contro gli Stati Uniti, quindi non contro un rivale di primissimo rango, io non credo che sia il giocatore più indicato, perché o c'è da finalizzare o se no si gioca in 10 aspettando l'attimo dell'agguato vincente con Inzaghi. È una scommessa in campo internazionale e nazionale. E poi stiamo sempre parlando di giocatori che, insomma, a parte che va per i 36, ma che in questi anni abbiamo visto, rivisto e stravisto anche in nazionale. Dire che c'è qualcuno che sta fuori oggi ingiustamente dall'Italia, mi sembra, dato che li abbiamo visti tutti, mi sembra un po' tirato per i capelli. Non si è più ai tempi delle esclusioni eccellenti o incomprensibili, no? Mi pare siamo al momento delle scelte, siamo in un tempo di scelte che possono essere più o meno condivise, ma che non mi sembrano bestemmie in ogni caso, no? Rispetto ai valori che vediamo abitualmente. Cristian da Venezia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Ho una curiosità da chiedere a lei. Cosa ne pensa dell'interpretazione del fuorigioco che ha portato ad annullare l'autogol a favore dell'Italia? Perfetta. Sì, l'ascolto per radio. Perfetta. Perfetta nel senso che il difensore statunitense commette quell'errore, cioè va in spaccata alla disperata, proprio perché avverte un uomo alle spalle, perché non può permettersi di lasciar passare quel pallone che altrimenti verrebbe raggiunto dall'attaccante avversario. Se quell'attaccante avversario è in posizione irregolare, è giustissimo, è sacrosanto annullare il gol e valutare il fatto che quello che ha condizionato l'azione è stata la posizione irregolare dell'attaccante, proprio da casistica. Molto bravo quell'assistente a prendere quella decisione. Michele Padova, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Volevo porre la sua attenzione a un caso un po' diverso da quello che stiamo trattando oggi. Io sono un tifoso del Padova, lei magari avrà dei buoni ricordi. Noi domenica siamo impegnati su una trasferta molto... per la finalissima dei playoff, come sicuramente lei sa. Non c'è il Casmus ha dato 600 biglietti ai tifosi padovani per andare a Pusta al sito. Io voglio capire come si può curare il calcio quando si parte da questo male, come si può giocare partite del genere su stadi così sicuri. Volevo solo porre questo quesito all'attenzione del pubblico calcistico. La saluto e la ringrazio. Grazie a lei Michele. Anche l'Under 21 è chiamata a fare la sua parte stasera, visto che inizia la fase finale degli europei che si gioca in Svezia. L'Italia è impegnata contro la Serbia, che tradizionalmente è un avversario di quelli tutt'altro che facili, e credo che i motivi di interesse siano davvero molti, perché in questa fase in cui siano più del solito, proprio perché ci sono molti titolari, molti, ripeto, combattenti reduci di Germania 2006 che stanno mostrando la corda, e insomma la formazione dell'Under 21 di alternative ne suggerisce, perché esterno destro gioca Motta, che secondo me già oggi tra Motta e Zambrotta un pensierino serio lo farei. A sinistra gioca Criscito, uno dei due centrali è Bocchetti, in mezzo al campo comunque la linea di centrocampo è da destra a sinistra, è Marchisio, Cigarini, De Ceglie, e davanti giocano Balotelli, Giovinco e Acquafresca. Insomma, mi pare che non manchino i motivi di interesse per seguire questa partita, non solo per quello che vale, che non è poco, ma anche in proiezione poi di inserimenti di qualcuno di questi ragazzi tra i 23 della prossima avventura in Sudafrica, cioè quella che conterà poi davvero. C'è in linea Antonello da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Io ieri sera ho visto la partita e mi ero fatto un'idea completamente diversa. Invece stamattina vado a leggere i giornali e la critica praticamente quasi sparava a zero sui giocatori che ieri sera hanno fatto la partita. Io ho visto una bellissima partita, dei bellissimi fraseggi, degli automatismi sempre ricercati. Ma lei ha acceso solo nel secondo tempo o si è sintonizzato alle 8:30? No, ho visto anche il primo tempo, però il primo tempo comunque sia, voglio dire, sfidavo qualunque nazionale a giocare contro gli Stati Uniti con quel pressing, insomma. Voglio dire, non era facile giocare. Poi chiaramente il secondo tempo è stato di un altro livello. Gli unici problemi che abbiamo oggi in nazionale sono il difensore centrale sulla destra con Zambrotta, che fa fatica, e Toni. Per il resto credo sia una nazionale accettabile, considerando che Gattuso è sottotono e Pirlo anche. No, ma nessuno l'ha definita inaccettabile, infatti, però le ripeto, questa nazionale così disinvolta che lei mi descrive, giocava contro una squadra che pressava bene, siamo d'accordo, ma oggi tutte le nazionali al mondo più scarse sono e meglio pressano, nel senso che se non fanno nemmeno quello allora sono dei materassi. Nell'intero primo tempo concedere loro due palle gol più l'azione del rigore, e creando soltanto una schiacciata di testa, anzi un tuffo di testa di Legrottaglia, nemmeno tanto difficile, e mandato fuori in totale, cioè, mi sembra un po' avvilente come rapporto di produzione tra l'una e l'altra, considerando che una è l'Italia e l'altra è gli Stati Uniti. Però se lei la vista così non voglio contraddirla per principio. Mirko da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. No, un intervento opposto a quello che mi ha preceduto, no? Dicevo che è sempre meglio avere un allenatore fortunato che uno bravo, no? Nel senso mm-hmm. che il primo tempo abbiamo visto tutti come è andata la partita, no? E dopo verso la fine se davano l'altro rigore sulle grottaglie lì la partita finiva 2-2 in ogni caso, no? Io ho visto che ha fatto molta molta fatica la nazionale nel primo tempo, dopo giocare con un uomo in più tutto il secondo tempo è molto più facile, no? Questo volevo dire, che forse si critica poco Lippi rispetto a Donadoni. Beh, questo direi che non è una novità, nel senso che Lippi gode del carisma di un campione del mondo, gli si è concesso persino questo Andy Rivieni come se la nazionale fosse un piede a terra, no? E mentre Donadoni, non godendo dello stesso trattamento di favore, mi pare appunto che abbia avuto qualche problemino in più di rapporti interni ed esterni e soprattutto di giudizi. Questo lo sapevamo. Però mi sembra che l'analisi sulla serata di ieri se parliamo delle ultime due analisi, mi sembra molto più felice e molto più centrata la sua. Poi molte, molte cose sto leggendo. Tra tutti i reparti, scrive Enrico da Treviso, in prospettiva mi sembra che sia solo l'attacco a non mostrare grandi problemi. La difesa invece è sensibilmente peggiorata rispetto al 2006, visto che allora visse un momento di grazia. E poi altri pareri, altre mail che sono arrivate, vediamo se ci sarà il tempo. Adesso c'è in linea Marco dalla provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno signor Granzi, anch'io sono contento per la vittoria e più che altro per Rossi, perché abbiamo davvero un campione, penso in prospettiva, veramente bravo e forte. Però non penso che l'Italia possa, cioè vedendo la Spagna, vedendo altre nazioni, possa paragonarsi, dice lì, perché non c'è gap. Ma io vedo la difesa, le grottaglie era in condizioni impresentabili. Se si trova Torres davanti o un Cristiano Ronaldo, penso anche Chiellini va bene al rientro, Cannavaro mi sembra un po' anziano. Cioè, spero, come dice lei, nell'Under 21 che ci sia un ricambio, perché anche la difesa mi sembra proprio in condizioni pessime. E poi l'ultima domanda veloce: come mai Camoranesi ha tanto spazio? Secondo lei, un giocatore nervoso che ieri sera stava compromettendo la partita con dei falli inutili? È un problema, Marco, di un misto di affidabilità e riconoscenza, nel senso che insomma, la riconoscenza è inutile che stia a spiegarla, l'affidabilità è quella che ti fa scegliere un giocatore collaudato di cui conosci anche i difetti, ma conosci soprattutto i pregi e speri sempre che siano i pregi ad averla vinta sui difetti. Poi mi sembra che questa operazione da qualche tempo non stia più riuscendo, ma è anche vero che questa è una turna sperimentale e quindi saranno tutte valutazioni, sono tutte valutazioni quelle che si fanno in prospettiva 2010, non tanto finalizzate a questo 2009. Sentiamo ancora Walter da Udine. Buongiorno carissimo e complimenti a Radio 24. Grazie. Quindi io sarei più per dar largo ai giovani, perché dai 19 ai 25 anni sono le più grandi vigorie che noi abbiamo. Io mi ricordo, io ho 67 anni, l'età di Mazzola e anche di Cappello, è inutile, quell'età lì ci ricordiamo tutti quante vigorie che abbiamo addosso. Sì. Io darei largo, come che ha fatto la Spagna. Sì. La Spagna perché vince? Non solo per la loro sapienza, saper giocare, perché hanno il vigore nel sangue. E io, se fossi un allenatore, continuerei. Abbiamo giovani in Italia che sanno giocare dai 19 ai 25 anni. Sì. Io sono di quell'idea lì. Sì, espressi in maniera abbastanza chiara. Lei ha invecchiato un pochino Capello, perché Capello rispetto a Mazzola ha 4 anni di meno, quindi nel 63, non 67, ma insomma il discorso sulla vigoria le dirò che all'inizio mi ha anche un po' preoccupato, che si prestava ad altri versanti e non solo a quello strettamente sportivo e agonistico. Invece tutto bene perché finisce bene. Gianni da Ancona, buongiorno. Pronto Gianni D'Ancona, non è tanto pronto, e allora che fare? Allora potrei darvi conto di una simpatica, sinceramente simpatica, telefonata di Guidolin ieri a programma terminato. Guidolin ha cercato invano di di raggiungermi in diretta attraverso il numero verde, attraverso l'800 24 00 24, era stracarico, come spesso accade, se non tutti i giorni accade, e quindi non è riuscito a prendere la linea prima che finisse il programma. Voleva non contestare, ma insomma voleva aggiungersi all'elenco. Io gli avevo detto, tra le altre cose, che il divorzio Zamparini-Ballardini segnalava una nemesi e segnalava il fatto che per la prima volta un allenatore non avesse accettato i modi sempre più intollerabili di porsi di Zamparini rispetto ai suoi tecnici, e se ne fosse andato a schiena diritta, eccetera. Guidolin ha rivendicato di averlo a sua volta fatto, e di aver rinunciato a dati 2 anni di contratto dopo aver raggiunto il piazzamento UEFA con il Palermo. Poi è vero che ci furono dei ritorni e dei controritorni, ma insomma avrebbe tenuto a sottolineare questo e a ricordare come un rapporto che era nato invece in maniera molto corretta tra Zamparini e Guidolin, ed è Guidolin che parla, fosse poi invece degenerato perché il soggetto diventava sempre più invasivo e sempre più preda di un delirio di onnipotenza. Guidolin rivendica in particolare una frase che Zamparini disse dopo l'ultima sua cacciata da Palermo, e cioè: è un buon allenatore, ma con lui non si può parlare di formazione. Ecco, questa Guidolin giustamente la ritiene non una critica ma una decorazione. Domenico ha chiamato dalla provincia della Spezia, buongiorno. Buondì, salve, buona giornata a tutti. Volevo notare far notare due piccole considerazioni. Intanto penso che le squadre blasonate di come Brasile e Italia abbiano preso questa coppa per poter crescere un po' di più, e non hanno la mentalità, come dire, di un mondiale, di un europeo, dove insomma c'è un altro vigore. E poi volevo far notare una cosa, che noi abbiamo giocato in 10 noi contro 11 loro per 40 minuti, e poi abbiamo giocato, quando è stato espulso il suo giocatore, 11 contro 10 perché abbiamo sostituito chi in campo non c'era in effetti, e da lì è cambiata la partita. Beh, perché prima avevamo difficoltà a stare dietro la loro corsa perché ci mancavano chi correva. Beh, insomma, mettiamola così, se vogliamo fare un po' gli originali a tutti i costi. Io dico che sarei molto curioso di vedere come finiva quella partita ieri sera, se o l'arbitro non infierisce su quello che fa il fallo su Gattuso, perché poteva essere la scelta, era molto opinabile se espellere o meno, anche se a espellerlo non ha sbagliato. Avrei voluto vedere, avesse espulso Chiellini subito dopo, come finiva e che cosa staremo raccontandoci adesso. Un po' mi è sembrato un po' nervoso e insicuro, sbaglio? Domanda Paolo da Bergamo. Ma nervoso non direi, insicuro certamente sì. Palloni volano sempre di più, questo è vero, un paio di tiri da lontano erano insidiosi, in effetti, insomma, Buffon c'ha, è il discorso degli ultimi mesi, Buffon ci ha abituato in questi mesi ci aveva abituato negli anni precedenti a domare quasi ogni tipo di insidia, e adesso invece fa fatica a domare a sua volta. Il ripasso di storia, che cosa è accaduto il giorno 16 giugno andando a ritroso, e raccontato da Nicola Filippone. Sembra ieri. 16 giugno 1982. A Bilbao si gioca Inghilterra-Francia, prima gara del gruppo D dei mondiali. Gli inglesi, che si imporranno per 3-1, sbloccano il risultato dopo 27 secondi, grazie al centrocampista del Manchester United, Brian Robson. Si tratta di uno dei gol più rapidi nella storia delle fasi finali della Coppa del Mondo. Il più veloce in assoluto, dopo 11 secondi, lo ha segnato nel 2002 il turco Hakan Şükür, nella finale per il terzo e quarto posto contro la Corea del Sud. Vero, tutto vero. Erano già pochi 27, certo che 11 sono molto, ma molto meno ancora, perché sono meno della metà, tra l'altro. 11 secondi è un lampo. Giuseppe Lodi, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Dica. Ascoltavo il suo discorso prima sui giovani dell'Under 21 che potrebbero essere inseriti. La mia considerazione era questa. quale miglior palcoscenico per provare i giovani promettenti tipo Balotelli o Marchisio, quale questa Confederation Cup, salvo poi, come succede spesso in Italia, dire ma sì, davanti a prestazioni positive, in fondo era una competizione che non contava nulla, per tenerli comunque fuori quando poi le partite contano i tre punti, ecco. Volevo sapere cosa ne pensava lei. Penso che proprio perché la Confederation Cup non conta nulla, che poi non è vero, ma insomma conta meno di un europeo under 21, quindi cosa facciamo? Portiamo tutti i migliori under 21 a giocare in Sudafrica e là che gli mandiamo i vecchi fuori età? Insomma, evidentemente no, quindi credo che quando c'è una manifestazione ufficiale come un torneo, un campionato d'Europa under 21, io credo che sia giusto lasciare i giocatori al CT dell'under 21, poi ci può essere l'eccezione. Perché è chiaro che la nazionale maggiore ha sempre un diritto di prelazione e in caso di particolare necessità o soprattutto di concomitanza di manifestazioni di pari livello, allora è ovvio che la nazionale maggiore conti di più, ma se una sta giocandosi qualcosa di serio e l'altra sta giocandosi un torneo, per quanto significativo, un torneo comunque accademico, mi pare che il diritto di precedenza all'under 21 sia assolutamente sacrosanto. Mentre prepariamo il collegamento con il Sudafrica, sentiamo ancora Fausto da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Io niente, volevo dire qualcosa a proposito di Pirlo. Cioè, secondo me Pirlo ieri, cioè, ha salvato la sua partita con un gesto tecnico, un po' la stampa questo lo tiene un po' sempre in considerazione, però Pirlo ieri è stato, secondo me, non ha giocato da sufficienza, ha perso almeno 3 palle gol nel primo tempo, 3 palle a centrocampo semplicissime che quasi ci costavano il gol. Sono d'accordissimo con lei, proprio stradaccordissimo con lei, sono contento, la sua un'osservazione secondo me da competente vero, cioè quello non è il vero Pirlo e soprattutto il vero Pirlo non può cercare un dribbling in orizzontale a metà tempo sullo 0-0 e concedere agli americani, non a Messi, no? Concedere a uno di questi qua, non mi ricordo chi era, forse Bradley, un contropiede così penetrante e poi così ciccato alla fine da un sinistro colpito male, sicché lei ha ragione. Poi superiorità numerica, rimonta completata, velluto, eccetera, eccetera. Allora l'assist bellissimo, vabbè. Credo che sia facile. No, sia facile per un giocatore di quella levatura, però è prima che ti aspetti di più da uno come Pirlo. Eugenio ha chiamato da Modena. Buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Le volevo ricordare l'episodio di Zidane, che è stato forse il più eclatante per la testata data a Materazzi. In quel caso l'arbitro non si accorse assolutamente in presa diretta di quello che era successo. Ha preso la notizia dal suo auricolare perché il quarto uomo gli ha appunto detto che era successo questo brutto episodio che fa male allo sport. Poi le volevo ricordare due nomi semplicissimamente, ma Cassano e Barzagli. Barzagli non poteva fare comodo alla difesa attuale dell'Italia a posto di un Legrottaglie che quest'anno ha sfoderato ben poche prove positive. L'anno scorso forse sì, ma quest'anno non è senz'altro stato un giocatore che ha fatto la differenza nella difesa della Juventus. La ringrazio, dottore. Grazie a lei. Io non credo che quelli che ci devono essere ci sono, quelli che mancano sono dei ragazzi, secondo me, della generazione successiva a quella di Cassano e Barzagli, ma evidentemente tutti i gusti sono gusti, come questo di Pier di Cassano Magnago, che scrive: a me è piaciuta molto la nuova divisa azzurra, è davvero molto bella. Beato lei, Pier, che se l'è fatta piacere, o comunque beato lei che le è piaciuta. Non potrei dire lo stesso dal mio punto di vista. Non è brutta in sé, perché quell'accostamento di quel celeste più che azzurro col marrone ha un suo perché, cromatico, indubbiamente. Non vedo perché interrompere una tradizione centenaria che è giocata su un azzurro più intenso e che è giocato sul bianco / sul nero dei pantaloncini, ma insomma non è certamente un argomento su cui perdere né il sonno e nemmeno del tempo. Mi piacerebbe invece, visto che abbiamo qualche problemino per il collegamento col Sudafrica, mi piacerebbe che partisse la sigla come se noi ci stessimo collegando con Stefano Piazza in Sudafrica. Sigla. Confederation Cup, a un anno dal Mondiale. E allora, è come se, visto che c'è un problema di linea oggi per collegarci con Stefano, vi leggo quello che Piazza ha scritto stamane sul manifesto. Stefano Piazza è un freelance che sta seguendo la Confederation Cup per molte testate, tra cui anche la nostra. Bene, nell'articolo di stamane, che sarebbe stato l'oggetto dell'intervento in diretta suo di oggi, ha spiegato un equivoco che si era creato domenica nella partita Sudafrica-Iraq e che ieri ha avuto anche eco qua in questa trasmissione. Perché? Perché si era denunciato un caso di razzismo alla rovescia, nel senso che domenica era stato fischiato dai tifosi sudafricani l'unico giocatore bianco in forza Sudafrica. Allora sentite la spiegazione vera, che è apparsa anche su altri quotidiani, ma che Stefano ha raccontato in maniera più dettagliata. Allora, Matthew Booth è un difensore roccioso, non molto rapido, forte fisicamente. Gioca nel Mamelodi Sundowns, ha avuto trasporto in Russia, è una colonna dei Bafana Bafana ed è bianco. In un paese in cui quasi solo i neri giocano a calcio, questo ragazzino di 198 cm è riuscito a convincere il CT brasiliano Santana a convocarlo in nazionale, dove l'unico altro bianco è il portiere di riserva Fernandez. Matthew è entrato nel cuore dei tifosi sudafricani bianchi e neri, che lo incitano urlando il suo nome ogni volta che tocca palla, e domenica, nella gara inaugurale della Confederation Cup contro l'Iraq, il calore del pubblico per il suo beniamino ha generato in tribuna stampa un equivoco bizzarro. Boot, ovviamente trascinato e facilmente confondibile con i beceri burazzisti di casa nostra, tant'è vero che quasi tutti i giornalisti italiani sono caduti nell'equivoco. Visto che il collegamento è stato, mi pare, ripristinato, Stefano, onestamente ci sei cascato, sì, anche ecco. Tu e oggi l'hai raccontato, vero? Effettivamente sì, siamo cascati tutti, compreso il sottoscritto. In effetti poi mi sono preoccupato di chiedere ai colleghi sudafricani il motivo di questo attacco nei confronti dell'unico bianco in campo, e loro mi hanno risposto molto divertiti che in realtà si trattava per l'appunto di un equivoco e che era esattamente l'opposto, cioè un incitamento nei confronti del difensore del Mamelodi Sundowns. Come poi in effetti, controllando in rete, ho notato la stessa scheda di Booth su Wikipedia riporta questo fatto, quindi in realtà era un equivoco facilmente evitabile, ma in cui siamo scivolati veramente tutti. Meglio così. Senti, dato che il tempo sta per scadere, io però proverei a consolarti. Voi siete caduti in questo equivoco. Un direttore della Gazzetta dello Sport, qualche anno fa, ho detto un direttore, vedendo una telecronaca di un Manchester United Milan, scrisse il giorno dopo nel fondo di prima pagina della Gazzetta dello Sport che era inutile che tutti noi continuassimo a esaltare il fair play dei tifosi inglesi quando il giorno prima l'unico giocatore di colore, Seedorf, del Milan, era stato così beccato a base di bu dal pubblico dello United, non accorgendosi che esattamente come è successo l'altro ieri in Sudafrica, il pubblico dello United urlava Rude e lo stava urlando a Ferguson perché facesse entrare Van Nistelrooy. Quindi se mi sento in buona compagnia. Spero che questo vi possa consolare e ti do appuntamento a domani. Grazie Stefano, lo do anche ai nostri ascoltatori. Prima la sigla che chiude il collegamento con il Sudafrica e poi quella da Tempo di Sport, dopo aver ringraziato Flavio Suani in redazione e Filippo Aureggi in regia.